Sento il richiamo della musica e racconto storie passate, fatte di gente sulla spiaggia, tamburi e danze, a piedi nudi sulla sabbia. Voglia di amare e di star bene, tra le scintille di palo in festa, notte di mezza estate. Ricordati di me, quando sarai andata via, dai pensieri di questa gente. Di mezza estate, sono qui con te e attendo un nuovo giorno, una nuova vita, un messaggio corre veloce, come il ritmo di questi tamburi. A guardare le stelle, sognando un mondo più vero, mano nella mano, passeggiando sul bagnasciuga, ritorniamo a quando eravamo come fratelli di una sola terra. Di mezza estate, ricordati di me, quando sarai andata via, dai pensieri di questa gente, notte di mezza estate, sono qui con te. Un nuovo giorno, una nuova vita.